ora parte un nuovo sound per il giovedì. Sto cominciando a perché il pubblico me lo chiede. Insomma, no, ma come il pubblico, Drago, ti chiede allora, il venerdì adesso? Non su Facebook, Facebook, c'è già gente che tipo il martedì Invoca, invoca il venerdì, però. No, però sì, è già questa cosa della AH finale, come si chiamano queste? Sono delle desinenze, diciamo. Sì, la desinenza del venerdì viene assorbita anche dagli altri giorni, quindi automaticamente. Quindi tu dici una. Lo spirito, la psicolinguistica direbbe che ormai sta cambiando la concezione. Vedi, questo per esempio giovedì succede che c'è il trap. Cos'è sta cosa? No, aspetta. Il venerdì, vedi? Non è così rilassato come questo è il giovedì. Questo è giovedì, attenzione. E non è rilassato come il venerdì, effettivamente. Però, la gente è ancora un po' tesa. Pian piano si comincia a sentire il groove. Il groove con il riff scritto R-E-E-F. R-I-F. Giovedì. Scusateci. Non continueremo. Non sarà così Thursday. Per sempre. This is Thursday. È una fase transitoria di K. Ma giovedì in inglese con la stessa desinenza diventa Thursday. Questo dovrebbe essere uno scratch, in realtà vado in iperventilazione e mi viene da svenire. Ambulanza, suora, sente male. Guarda che cita, è morto, è un maschio. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Veloce oggi, dai, veloci perché abbiamo perso veloci, tempo. Allora, dai. Saluto dallo sponsor del programma, Wunderwaffer. Via sapete veloci. Anche, no, sapete che c'è il nuovo Wunderwaffer. No, veloce, dai. Sì, veloce, che però di nuovo ha solo il nome nuovo. Nel nome. Insomma, cioè, squadra che vince non si tocca. Anche no? Perché è vietato avere rapporti sessuali prima delle partite, ma in ogni caso il nuovo Wunderwaffer. La squadra che non si tocca. Wunderwaffer nuovo non è nuovo solo perché la formula è stata migliorata, eccetera, eccetera. Ma spiega dove sono i miglioramenti, se no sembra davvero. Vero che non sia cambiato niente, sì, che sia tutto uguale. I miglioramenti, cioè il mu, ad esempio, il mu è più, cioè, e poi è più croccante. Ma cosa, il mu croccante? Ma no, la pasta sfoglia naturale, poi ci sono le nocciole. Sì, vabbè, lascia stare. Dunque, oltre ai molti miglioramenti del biscotto in sé, abbiamo finalmente anche la versione sacchetto. Finalmente. Cioè, basta con il classico packaging da wafer tipo melodica o xilofono, cioè con tutti i wafer uno vicino all'altro che sembrano uno xilofono e largo al nuovo packaging a sacchetto. Ma hai provato a suonare un avrete questo sacchetto da 2,5 etti, nel quale immergere la mano a caso, prendere un biscotto, poi un altro, poi un altro ancora. Sì, però attenzione perché nel sacchetto potreste trovare la famigerata Golden Enus. No, spiega meglio Golden Enus, non si capisce. Meglio, qui siamo allora. In Italia, allora. Golden Enus. Certo così. La nocciola d'oro. Ah, la nocciola sacchetto d'oro. Può essere quello giusto per trovarla, Drago. Quindi prendete d'assalto gli scaffali dei biscotti. Yeah. Quindi prendete d'assalto gli scaffali dei biscotti, non lasciate che il destino si compia senza aver fatto di tutto per piegarlo al vostro volere, come voleva Machiavelli in fondo, no? Anche Nietzsche, non so, anche Hitler, sì, insomma, sì. Ma cosa c'entra? Vabbè, comunque cercate la Golden Enus. Aia! Cosa c'è? Ma viene, trovarci la Golden Enus. Niente. Wunderwaffer. C'è una sorpresa nuova, Wunderwaffer. Occhio ragazzi, perché Wunderwaffer è l'ostia sottilissima che ti dice hai vinto, hai vinto. Mastica piano e non mandare giù, c'è una sorpresa nuova. Sì, è una buona merendina. La compra. Wunderwaffer. Devo dire che uno che mi sta così sulle palle come Monti non l'avevo mai provato. Questo qui è Calderoli, quindi Calderoli Dixit. Amen. Che brutta immagine, però, bisogna dire. Però un linguaggio popolare, Drago, è colorito. Sì. La Lega parla così. A parte il linguaggio, io mi sono proprio io mi sono fermato a pensare proprio all'immagine vera, reale, del povero Monti fisicamente sulle palle enormi di Calderoli. Ed è davvero disgustoso. Cioè, ma perché le palle enormi? Sì, perché se c'è tutto Monti sopra lei, non possono essere le palle vere di Calderoli. I piedi, capito? Pensa a Calderoli che si porta Monti proprio lì, se lo porta in giro dentro i pantaloni, si spera, che non vada in giro così a esibire. Ma scusa, ma cosa fai? Metti in pratica il linguaggio figurato? Ma è un esercizio che non si fa tipo più. Tipo la cosmogonia antica, no? Cioè la rappresentazione del mondo come se lo immaginavano gli antichi, una terra piatta retta da due tartarughe gigantesche, certo. Le schiere degli angeli. Invece al giorno d'oggi abbiamo Monti che sta sulle palle a Calderoli, quindi povero Monti. Però povero anche Calderoli. Povero anche Calderoli, sì. Bastava Gian Domenico Fracchia per far disastri del genere. Io credo che poche persone si possano inquadrare o fare un parallelo con Monti come il comandante Schettino della Concordia. Dicono il governo dell'Ode. Io c'è una a casa, non l'ho più messo in tutto inverno per protesta contro Monti e non lo metterò mai. Adesso questi si mettono a fare veramente i vertici con Bersani, con Casini, con Alfano. Ci manca che ci vada anche Berlusconi, veramente i quattro porcellini che sostengono il governo Monti. Si dice Super Mario a destra, Super Mario a sinistra, però questo Mario non è che sia poi così super. Ma super nel superare. Super Mario, Super Maria mia sinistra. Sì, è un verbo. Perché non è super? Perché ormai è un governo debole, capito? Ogni volta che si presenta in Parlamento con una riforma, il governo deve aver paura dei cecchini. I cecchini. I franchi tiratori. Ma non ho capito. Ma stai parlando del Parlamento, Drago, o di Sarajevo? Ma no, ma faccio uso del linguaggio figurato come Calderoli, mica significa gli stanno oggi sulle palle capiamo, Monti. Oggi io e te non ci capiamo. È colpa del linguaggio figurato, così. Per quello. No, perché io immaginavo i parlamentari cecchini con dei fucili di precisione che mirano alle orecchie del ministro Giarda. Caccia grosso, caccia l'elefante, non servono fucili tanto precisi, quel che conta è il calibro della pallottola in quel caso lì. Giusto. Sì, però l'elefante, anzi l'elefantino è Giuliano Ferrara. Sì, l'elefantino sì, ma l'elefante adulto invece è Giarda. Linguaggio figurato, Linguaggio figurato. Sì, però l'elefante più conosciuto d'Italia rimane Giulianone Ferrara. Lui non si firma nemmeno, lui l'elefante lo mette proprio come immagine, non si firma né l'elefante né l'ele staccato Fante, come dire il nipotino grasso di John Fante. No, lui in fondo agli articoli mette proprio un'immaginina dell'elefantino, giusto? Un'immaginina. Un'iconcina è meglio, dai. Iconcina. Scusa, perché iconcina deve essere meglio di immaginina? Scusa, perché immaginina fa venire in mente subito un'immaginina della Madonna, della Madonnina. No, appunto, Ferrara è contento così, adesso è diventato ratzingeriano, lui ci tiene a queste cose. Quindi se dici immaginina dell'elefantino, gli va bene. Se dici iconcina, no. Perché le icone sono tipiche degli ortodossi, scusa. Guarda, ci licenzio. Cosa c'è? Se continui così ci licenzio, anzi ti licenzio. Ah, solo me licenzio. Adesso senza l'articolo 18 siamo licenziabili anche separatamente. Cosa c'entra? Prima invece erano obbligati a prenderci o a lasciarci in coppia. Adesso sono i miracoli del governo tecnico e delle orecchie del ministro Giarda. Linguaggio figurato, eh. Ah, a proposito, sai cosa dice un elefante davanti a un frigorifero pieno di coche? No. Elefante? Questo è molto divertente. It's me, Mario. Giocare. Manovra. Su, su. Succederà. Passi in avanti. Avanti. Genuflessione. Deve penetrare di più, più, più, più. Sai cosa dice un elefante davanti a un frigo pieno di Coca-Cola? No. Elefante. Questo è l'umorismo del pomeriggio di Radio 24. Barzellette d'asilo. D'asilo, infatti. Chiedo asilo, chiedo asilo, radio24.it. Mandate i vostri video didascalici. Disgustosamente didascalici. Stucchevolmente didascalici. Delle canzoni di Bambino Alberto. Non so, l'orfanello, non correre papà. Ce ne sono migliaia, migliaia e migliaia. Elefante.